Vangelo di San Luca, capitolo 9. Or Gesù, chiamati assieme i dodici, diede loro podestà ed autorità su tutti i demoni di guarire le malattie, e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire gli infermi, e disse loro: non prendete nulla per viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né danaro, e non abbiate tunica di ricambio. E in qualunque casa sarete entrati, in quella dimorate e da quella ripartite. E quant'è a quelli che non vi riceveranno, uscendo dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro a loro. Ed essi partiti si andavano intorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni dove. Ora, Erode il tetrarca udì parlare di tutti di quei fatti e n'era perplesso, perché taluni dicevano: è Giovanni che è resuscitato dai morti, altri dicevano: è apparso Elia, ed altri: è resuscitato uno degli antichi profeti. Ma Erode disse: Giovanni l'ho fatto decapitare, chi è dunque costui dal quale sento dir tali cose? E cercava di vederlo. E gli apostoli, essendo ritornati, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte, ed egli, prese lì seco, si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le turbe, avendolo saputo, lo seguirono, ed egli, accoltele, parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Or, il giorno cominciava a declinare, e i dodici accostatesi gli dissero: licenzia la moltitudine, affinché se ne vadano per i villaggi e per le campagne d'intorno per albergarvi e per trovarvi da mangiare, perché qui siamo in un luogo deserto. Ma egli disse loro: date lor voi da mangiare. Ed essi risposero: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, seppur non andiamo noi a comprare dei viveri per tutto questo popolo, poiché v'eran 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli accomodare a cerchi d'una 50. E così li fecero accomodar tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò e li dava ai suoi discepoli per metterli dinanzi alla gente. E tutti mangiavano e furono sazi, e dei pezzi loro avanzati si portarono via 12 ceste. Or avvenne che, mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui, e gli domandò loro: chi dicono le turbe che io sia? E quelli risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, ed altri uno dei profeti antichi resuscitato. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro rispondendo disse: il Cristo di Dio. Ed egli vietò loro severamente di dirlo ad alcuno, ed aggiunse: bisogna che il figliolo dell'uomo soffra molte cose, e sia reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi, e sia ucciso, e risusciti il terzo giorno. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Infatti, che giova egli all'uomo l'aver guadagnato tutto il mondo, se poi ha perduto o rovinato se stesso? Perché se uno ha vergogna di me o delle mie parole, il figliuolo dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Or io vi dico in verità che alcuni di coloro che son qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano veduto il regno di Dio. Ora venne che circa 8 giorni dopo questi ragionamenti, Gesù prese seco Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne candida sfolgorante. Ed ecco 2 uomini conversavano con lui, ed erano Mosè ed Elia, i quali appariti in gloria parlavano della dipartenza che gli stava per compiere in Gerusalemme. Or Pietro e quelli che erano con lui erano aggravati dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, egli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», non sapendo quel che si dicesse. E mentre diceva così, venne una nuvola che li ricoperse della sua ombra, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola, ed una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è il mio figliuolo, l'eletto mio, ascoltatelo». E mentre si faceva quella voce, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero e non riferirono in quei giorni ad alcuno nulla di quello che avevano veduto. Ora avvenne il giorno seguente che, essendo essi scesi dal monte, una gran moltitudine venne incontro a Gesù. Ed ecco un uomo dalla folla esclamò: «Maestro, te ne prego, volgi lo sguardo al mio figliuolo, è l'unico che io abbia». Ed ecco uno spirito lo prende e subito egli grida, e lo spirito lo getta in convulsione facendolo schiumare, e a fatica si diparte da lui, fiaccandolo tutto. Ed ho pregato i tuoi discepoli di cacciarlo, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò io con voi e vi sopporterò? Mena qua il tuo figliuolo». E mentre il fanciullo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e lo torse in convulsione. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il fanciullo e lo rese a suo padre. E tutti sbigottivano dalla grandezza di Dio. Ora, mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene a mente queste parole. Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano quel detto, che era per loro coperto d'un velo, per modo che non lo intendevano, e temevano di interrogarlo circa quel detto. Poi sorse fra loro una disputa su chi di loro fosse il maggiore. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un piccolo fanciullo, se lo pose accanto e disse loro: «Chi riceve questo piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato, poiché chi è il minimo fra tutti voi, quello è grande». Or Giovanni prese a dirgli: «Maestro, noi abbiamo veduto un tale che cacciava i demoni nel tuo nome e gliene abbiamo vietato perché non ti segue con noi». Ma Gesù gli disse: «Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi». Poi, come si avvicinava il tempo della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente in via per andare a Gerusalemme, e mandò davanti a sé dei messi, i quali partitisi entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli alloggio. Ma quelli non lo ricevettero, perché era diretto verso Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi tu che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi?» Ma Gesù, rivoltosi, li sgridò, e se ne andarono in un altro villaggio. Ora venne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò ovunque tu andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo». E ad un altro disse: «Seguitami». Ed egli rispose: «Permettimi prima d'andare a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio». E ad un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma permettimi prima d'accomiatarmi da quei di casa mia». Ma Gesù gli disse: Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio.